Ok, allora iniziamo questo discorso. Questa sera lo faccio io al posto di Bante e parleremo di alcune difficoltà che si incontrano ai primi giorni della pratica. So Luisa will give the talk today instead of Bante, and she'll talk about some of the difficulties that you encounter in the first days of practice. E vengono chiamati i cinque ostacoli o i cinque impedimenti. And these are commonly known as the five obstacles or the five hindrances. E questi ostacoli sorgono proprio nei primi giorni di un ritiro. And they are usually present in the first days of a retreat. Questo perché arriviamo da una situazione esterna della nostra vita quotidiana, il lavoro, la famiglia, la casa, e quindi ci portiamo dietro tutta una serie di cose, un bagaglio a livello mentale molto, molto corposo. And this is because we come from our busy lives, work, family, and we bring with us this mental baggage that can be quite substantial. E quindi, come dire, il divario è abbastanza, come dire, grosso rispetto alla vita esterna e rispetto alla vita del ritiro. So it's quite a significant change to find ourselves in the context of a retreat. Nel ritiro siamo in una situazione protetta, apparentemente non abbiamo nessuno stimolo che possa, come dire, mettere in moto la nostra immaginazione o la nostra mente. And here we are in a sort of protected environment and very few external stimuli to set the mind in motion. E invece succede esattamente il contrario. But then actually just the opposite happens. E in genere, soprattutto chi è ai primi ritiri, chi è un principiante. And above all for those who are young in their practice doing their first or second retreat. Vive questi ostacoli in maniera abbastanza opprimente. Can find these obstacles to be quite oppressive. Proprio perché non si sono mai incontrati, non si riconoscono e quindi creano una sorta di difficoltà maggiore rispetto già agli ostacoli che si presentano. Maybe because one has not encountered them before, but there's a way in which this reaction to the obstacles then makes them even more difficult than they already are. Questi vengono appunto chiamati cinque ostacoli, si presentano in questa successione. These five obstacles usually present themselves in this sequence. Il primo è il desiderio sensoriale. The first is sensual desire. Il secondo è l'avversione e la malevolenza. The second is aversion and ill will. Il terzo è la pigrizia e il torpore. The third is sloth and torpor. Il quarto è l'agitazione e l'irrequietezza. The fourth is worry and restlessness. E il quinto è il dubbio scettico. And the fifth is skeptical doubt. Rispetto a questo argomento troviamo negli insegnamenti del Buddha, ci sono diversi sutta che si riferiscono a questi cinque ostacoli. So we find several suttas in the teachings of the Buddha that refer explicitly to these five obstacles. Il più importante di questi sutta è il Sangharava Sutta. The most important of these suttas is the Sangharava Sutta. Allora, mi piace, quando faccio riferimento a un sutta, mi piace leggere proprio la il sutta, in modo tale da avere proprio le parole originali del Buddha. So, non ve lo leggo tutto perché è un po' lunghetto. So Luisa, when she mentions a sutta, she likes to read something from the sutta so we have the actual words in front of us. Anche perché se avete già avuto occasione di leggere degli altri sutta, non so se avete notato che ci sono tantissime ripetizioni all'interno del sutta. If you've had any experience reading the sutta, then you'll know that there's a lot of repetition within each sutta. proprio perché all'epoca del Buddha nessuno aveva scritto su carta o i vari insegnamenti che lui aveva dato. And this was because there was no writing as such in the time of the Buddha. Quindi tutto era tramandato oralmente. So everything was taught orally and had to be learnt orally. E quindi queste ripetizioni sono dovute al fatto di riuscire a ricordare a memoria gli insegnamenti. And so the repetitions are a way to aid the memory. Quindi vi tralascio tutte le varie ripetizioni, vi leggo solo le parti più importanti. So she will not read the repetitions, but just the central part of the sutta. Questo sutta viene dal Samyutta Nikaya. You find the sutta in the Samyutta Nikaya. E parla di Sangharava, che era un bramino che viveva nella città dove in quel momento soggiornava il Buddha. And it talks about the Brahmin Sangharava who was present in the city where the Buddha was at the time. E chiede: amico Gotama, qual è la causa e qual è la condizione per via della quale i mantra, perché essendo un brahmino, quindi non essendo della religione induista, c'era la tradizione di ripetere i mantra. So, scusami, puoi ripetere? Sì, yeah. Tutto dall'inizio? Sì, no, solo la parte della sutta. Ah, ok. Ah. Amico Gotama, qual è la causa e qual è la condizione per via della quale i mantra? So, dear Gotama, what are the conditions and the causes by which mantra, pur essendo stati recitati per lungo tempo, even if it has been recited for a long period of time, non vengono ricordati, are not remembered, are not able to be remembered. Per non parlare di quelli che non sono stati recitati per lungo tempo. Not to mention those mantras that have not been recited for a long period of time. E inoltre, qual è la causa? And in addition, what is the cause? Qual è la condizione per via della quale? What is the condition for which? Per la quale i mantra, pur non essendo stati recitati per un lungo tempo, for which mantras that have not been recited for a long period of time, vengono facilmente ricordati. Are sometimes easily remembered. Per non parlare di quelli recitati da lungo tempo. Not to mention those mantras that have been recited for a long time. Ecco, e qui il Buddha introduce gli ostacoli, no? Quindi a questa domanda del bramino il Buddha risponde in questo modo. Allora, un bramino, un individuo con la mente ossessionata dal desiderio sensoriale. So he says, the Buddha responds, he says, Brahmin, for an individual whose mind is obsessed with sensual desires. Dominata dal desiderio sensoriale. Dominated by sensorial desires, sensual desires. È incapace di comprendere. Unable to comprehend. Secondo realtà. According to reality. Il sorgere e lo svanire del desiderio sensuale stesso. The arising and passing away of the sensorial desire itself. In quel momento. In that moment. Egli non è in grado di comprendere. He is not in a condition to comprehend. Di vedere secondo realtà. To see according to reality. Il proprio bene. His own good. Né quello degli altri. Nor the good of others. Né per entrambi. Nor the good of either of the two. E quindi a questo punto il Buddha introduce dei paragoni. And here the Buddha introduces some comparisons. Allora, dice Brahmino, è come se in una bacinella d'acqua. He says, Brahmin, it is as if in a bucket of water. Intrisa di lacca, curcuma, colorante blu o porpora. So, which has been infused with different colors, like blue or yellow or color of turmeric. È un uomo dotato di buona vista. A person endowed with good eyesight. Desiderasse osservarvi l'immagine del proprio volto. If he or she would like to look at their reflection of their face in the water. egli non riuscirebbe né a vedere né a riconoscere il proprio volto. He would not be able to see nor recognize his own face. Per come esso realmente è. For how it really is. E così fa tutti i paragoni per tutti i cinque ostacoli. Quindi, per quanto riguarda il desiderio sensoriale, è dell'acqua colorata. So, in this way, the Buddha makes similes for all of the five sensual, for all the five hindrances, and sensual desire is here compared to a bucket of water which has got colors in it. Per l'avversione. For aversion. Scusatemi. Allora, per l'avversione viene paragonata una bacinella sempre piena di acqua. So the comparison again to a bucket of water. Che viene messa a scaldare sul fuoco. Which is set to boil. E l'acqua ribolle, si scalda, ribollente, bollente. So the water is now bubbling as it boils. E anche in questo caso l'uomo non riesce a vedere il proprio volto riflesso nell'acqua. And even in this case the person is not able to see their own reflection or recognize their own reflection in the water. Per la pigrizia e il torpore invece una bacinella piena d'acqua con delle alghe. And as far as sloth and torpor it is like a bucket of water which has got algae in it. E anche qui non si riesce a vedere il riflesso del proprio volto nell'acqua, non si riesce a vedere il fondo. And here too the reflect you cannot see your own reflection nor can you see the bottom of the pot. E il quarto impedimento, agitazione, inquietudine o preoccupazione, è una bacinella mossa dal vento, agitata e l'acqua si muove in continuazione. The fourth simile is for restlessness and worry, and it is as though the surface of the water is being shifted continuously by a strong wind. Mentre invece l'ultimo, il dubbio scettico, è una bacinella torbida, con dell'acqua fangosa, dell'acqua contaminata, e anche in questo caso l'uomo non riesce a vedere il proprio volto riflesso nell'acqua. And the fifth, regarding skeptical doubt, the water is muddy, dirty. And so here too it's not possible to see one's own reflection in the water. Quindi adesso andiamo un po' a vedere nello specifico ogni singolo ostacolo, iniziando dal primo, dal desiderio sensoriale. So now we can maybe just go in order looking at each hindrance more in detail, beginning with sensorial delight. Già, cioè, Buddha è stato geniale, no? Nel paragonare l'acqua nei vari stati, nei vari modi. Quindi primo ostacolo, desiderio sensoriale, l'acqua colorata. So these wonderful similes already give us a kind of idea. So the first one is of the colored water. Perché i colori comunque attirano, no? Noi attirano la nostra attenzione, per l'occhio sono piacevoli da guardare. Because the colors are attractive to the eye and call the attention. E si manifesta, questo desiderio sensoriale si manifesta in diverse forme. So this sensual desire may manifest in several ways. E come dicevo prima, anche se noi siamo in un ritiro, qui intorno non abbiamo degli stimoli, come dire, molto grossolani che attirino la nostra attenzione. So even if we find ourselves within the context of a retreat without strong external stimuli. La mente trova il modo per far sorgere questo desiderio sensoriale. The mind finds a way to have this sensual desire arise. E che certe volte appare in modo abbastanza sottile o abbastanza quasi difficile da individuare. At times this manifestation is also can be quite subtle and difficult to identify. Per esempio, non so, ci sono, diciamo, delle regole da seguire nel ritiro, no? Quindi c'è la meditazione seduta, c'è la meditazione camminata, però a un certo punto siamo nella meditazione seduta e ci viene voglia di andare fuori, di andare a farci una passeggiata, di andare a guardare il paesaggio. So we have this strict routine of sitting and walking, and maybe during a sitting suddenly the desire will arise to be outside or to rest your eyes on the landscape. Quando le istruzioni che ci vengono date in un ritiro sono quelli di fare una camminata consapevole in un determinato spazio e senza, come dire, andarsene in giro per gli spazi intorno. Ecco. So the instructions are also to try to walk mindfully, keeping your senses contained. Oppure sorge il desiderio di mangiare un particolare cibo. Or maybe desire for food arises. Oppure ascoltare della musica, maybe leggere un libro. Maybe to read something or listen to music. E o anche in alcuni casi essere ossessionati, per esempio, dal desiderio sessuale. Sometimes even strong sexual desires can manifest in the mind. E qui ci potete mettere tutto quello che volete rispetto ai desideri, ce ne sono tantissimi. There are various forms of this desire. Che è molto sottile, no? Ci sono in alcuni casi è proprio, come dire, ci sono dei desideri che sembrerebbero assurdi, ma che alcune volte non sembrano neanche degli ostacoli. At times these desires are so subtle that they may not even appear in the form of an obstacle. Per esempio, io l'anno scorso quando sono andata in Malesia 2 mesi, io ho l'abitudine, adesso non ce l'ho più, però avevo l'abitudine di mangiare delle liquirizie dopo i pasti perché mi aiutava a digerire. So Louisa is telling a story for when she was doing a long retreat in Malaysia. She had the habit then of having a little licorice sweet after the meal to help her digest. E per qualche motivo non avevo portato la mia scorta di liquirizia. And for some reason she had forgotten to carry her licorice sweets with her. Cioè, era una ossessione, la liquirizia, cioè, ho fatto un primo periodo in cui, cioè, finivo di mangiare, oppure durante la meditazione mi veniva in mente questa benedetta liquirizia. And so this desire for the licorice would then arise after lunch or even during the sitting, obsessively arising. E poi a un certo punto ho detto, vabbè, ok, ho detto, magari si trova in giro, so cercando, si trova. The mind begins to even proliferate, thinking, okay, well, maybe I'll find it around, or maybe there's some around. Ma alla fine ho detto, lasciato andare, adesso non la mangio quasi più, la liquirizia. So, finally, letting it go. Questo per dire, no, come non, il desiderio sensoriale si presenta sotto vari aspetti, non solo, come dire, sotto un aspetto molto evidente per cui dice, ah, ecco, quello è un desiderio sensoriale. So, sensorial, sensual desire may manifest in ways that don't scream sensual desire. Ma anche in forme molto sottili. In these subtle ways. E c'è un'altra metafora molto interessante del Buddha in cui descrive una scimmia, perché appunto il desiderio sensoriale è un po' paragonato a una scimmia. Questa scimmia che si avvicina a questo albero cavo dove c'è un foro. And there's another story regarding some sensual desires, which is also in a way likened to a monkey. So there's this monkey who finds a hole in a tree. E dentro il buco ci sono delle noci. And there are some nuts in the hole. E la scimmia ha il desiderio di prendere queste noci. Il problema è che infilando la mano e prendendo le noci non c'è più lo spazio per tirare fuori la zampa. Scusate, non la mano, la zampa. Attracted by the nuts, the monkey puts his hand into the hole and closes his hand like a fist, his paw like a fist around the nuts. But now he can't take the fist out of the hole. The hand is expanded and it won't come out. Ma il desiderio è così forte che la scimmia mette la mano all'interno dell'albero, prende le noci, ma in quel momento arriva un cacciatore, lei non riesce a tirare fuori la mano e la uccide, ovviamente. And while the monkey is involved in this, the hunter walks by and the desire is so strong that the monkey can't release the fist and let the nuts go. And so, holding on to the nuts and unable to release her hand, she gets shot by the hunter. Cioè, questo per farci capire quanto è forte il desiderio, il desiderio verso qualsiasi cosa. And it's also to kind of illustrate the power that these desires can have over the mind. E noi non lasciamo andare, continuiamo a tenere strette le nostre noci. Yeah, and so we're holding our nuts, as tightly as possible. E in effetti, se poi guardiamo anche nella vita mondana, diciamo esterna del ritiro, nella nostra vita quotidiana, siamo intrisi di desiderio. So this is true also, of course, in our lives outside the retreat. Qualsiasi cosa è oggetto del nostro desiderio. Anything can become an object of desire. Io vi racconto questa cosa perché ho provato a osservare attentamente il desiderio nella vita di tutti i giorni. Che cosa succede? A me capita per le scarpe. Cioè, noi passeggiamo, guardiamo le vetrine, la nostra attenzione viene catturata da un paio di scarpe che ci sono in una vetrina. So, just Louisa doing this kind of investigation of desires in her own life finds that there's this kind of attraction to shoes. So, walking and then window shopping and then this pair of shoes in the window. Catch the attention. Cioè, questo per spiegare la modalità come succede il sorgere del desiderio, né, di come noi affrontiamo questa cosa nella vita di tutti i giorni e che succede anche nel ritiro. So this way in which an object will suddenly catch the attention is also something that then happens in a retreat. Quindi l'occhio è attratto da questo oggetto che sono le scarpe. So, just describing the process, then the eyes are drawn to this object of desire. In quel momento sorge in noi il desiderio di acquistare quelle scarpe. And then this is seconded by the desire to acquire the shoes. Magari non ci servono, non ne abbiamo bisogno, però in quel momento, come un fungo, nasce il desiderio. Maybe it's not even that we really need these shoes or require them, but there the desire is like a mushroom. E da qui parte tutta una serie di concatenazione di pensiero sull'acquisto della scarpa. O posso metterlo con quel vestito, posso mettere con quel paio di pantaloni, però potrei comprarlo di un colore diverso. And then here is a whole sequence of thinking generated by the desire to acquire the shoes. So, well, maybe I could wear them on these occasions, or maybe with this or that set of clothes, or maybe they'd work better in a different color. E qui incomincia, come dire, a crescere una certa tensione. And here a certain kind of tension, an inner tension begins to arise. Perché c'è questa indecisione, cosa prendo, cosa non prendo, no? Quindi la mente si carica, no? Di questa sorta di tensione. This kind of tension also brought on by indecision in the mind. C'è proprio tutta questa aspettativa, no? Questa tensione verso l'acquisto, verso l'oggetto del desiderio. And this set of expectations brought on by this object of desire. Alla fine decidiamo di acquistare le scarpe, ma nel momento in cui abbiamo preso le scarpe, le abbiamo portate a casa, è come se quel desiderio si sia svuotato. But the moment we buy the shoes, we bring them home, then it's like the desire has been emptied. E in noi sorge una sensazione quasi di vuoto. There's a kind of sense of emptiness that follows. Fino al prossimo desiderio. Until the next desire. E quindi è un continuo, no, desiderare per coprire un po' questo vuoto che abbiamo. And it's almost like this emptiness is something underlying, so the desire covers the emptiness. E questo succede anche in un ritiro. And this can also happen in the context of a retreat. E di solito sorgono dei pensieri all'interno del ritiro rispetto a questo impedimento. There are sometimes thinking that arises in relation to this obstacle. Perché sono tutti pensieri proiettati verso il futuro. And they're usually thinking that is projected towards the future. E quindi non si rimane nel momento presente. And so it carries us out of the present moment. Quindi le frasi caratteristiche sono: se avessi una casa più bella sarei felice. So the thinking goes along these lines. Mm. Well, if I had a more beautiful house, I'd be happier. Se avessi un fidanzato più bello, o più disponibile, o più accogliente, sarei felice. If I had a nicer partner, I'd be happier. E così via, insomma. Quindi sono tutti pensieri che sorgono proiettati nel futuro e quindi noi non riusciamo a rimanere nel momento presente. So it's all these thoughts that projected towards the future carry us out of the present moment. E quindi dobbiamo riconoscere che è un desiderio sensoriale ed etichettarlo come desiderio. So here it becomes important to recognize desires as desires and label them as such. Se però diventa molto importante, allora lo prendiamo proprio come un oggetto di meditazione. And if the desire is strong, then we can take the desire itself as an object of observation. Osservando come si manifesta all'interno del corpo, quindi per esempio potremmo sentire che c'è della tensione. So seeing also how this desire manifests in the body as tension or pressure. Pressione. Mm. Quindi è molto importante. In ogni caso, la cosa più importante è sviluppare la consapevolezza. And the most important thing here is to be mindful, to recognize. Poi il secondo ostacolo è l'avversione e la malevolenza. The second obstacle is aversion and ill will. È un ostacolo abbastanza importante tra tutti e cinque. E il Buddha, se lo ricordate, l'aveva paragonato a dell'acqua che bolle. So this is quite an important obstacle. And the Buddha, if you remember, likened it to boiling water. E a questo sono associati altri stati mentali non salutari come la rabbia, l'avversione, l'odio, la tristezza, la paura. And sono tutti parte di questo stato. There are many associated mental states going along with this. So anger or hate, but also fear or sadness. E anche qua sorgono dei pensieri particolari quando arriva questo ostacolo. And even here there are particular sets of thinking that may accompany the hindrance. Per esempio, siamo lì che stiamo meditando, a un certo punto il nostro vicino si muove, il pensiero che sorge uno stato di rabbia perché il vicino si è mosso e ci ha come distratti, e il pensiero è: se questo qui vicino non si muovesse, io farei una buona meditazione. So here it's just the flip of the other sets of thinking, right? So your neighbor moves or coughs or makes a sound and you think, oh, if only this person wouldn't be so noisy, I'd be able to meditate properly. E diciamo, sono tutti pensieri che sono sotto forma di allontanamento, di rispingimento di quello che ci circonda. Per cui, come dire, è come andare a cercare il cappello nella minestra, no? So the mind can also become quite obsessive here, like looking for the hair in the soup, and the thinking is all pushing away. Quindi ci dà fastidio appunto il vicino che disturba, quello che sbatte la porta, oppure quello che magari mangia rumorosamente, no? Perché non abbiamo, come dire, delle altre cose a cui aggrapparci, no? E sentire rabbia. So maybe we think even that it's externally generated, but maybe it's the internal state that then latches on to any object it can find. So a person making a noise or a door banging or other sound, disturbing sounds or anything to latch on to. E anche qua è importante sviluppare la consapevolezza, riconoscere che è un ostacolo, etichettarlo. And here too it becomes very important to recognize it as an obstacle and to label it. Però questi stati mentali sono abbastanza, come dire, pregnanti, no? E certe volte bisogna proprio prenderli come oggetto di meditazione. And these are quite substantial objects, and so it becomes necessary at times to take them as objects of observation directly. E sempre, anche in questo caso, bisogna riportarsi sempre a come si percepisce questo stato mentale nel corpo. Per esempio, bruciore, caldo, tensione. So here too it's very important to get off the mind and experience the state in the body. So to see how it manifests there as heat or burning or tension or una mente molto turbolenta. And you can also maybe even observe the condition of the mind that may be in a state of turbulence. Non a caso il Buddha l'ha paragonato dell'acqua che bolle. And so it's not accidental, the metaphor is not accidental of boiling water. Nella vita di tutti i giorni noi viviamo lo stesso stato mentale, no? Di avversione, di noia, di tristezza, però lo copriamo. Usually what happens in our quotidian life is that these states like boredom or sadness or aversion are very quickly covered up by something. Qui non abbiamo la possibilità di coprirlo perché facciamo un'ora di seduta, un'ora di camminata, no? Quindi abbiamo dei ritmi e delle modalità, delle tecniche ben precise. So here there's much less opportunity to escape from them because we are in this within this framework. Invece nella vita di tutti i giorni accendiamo la televisione, chiamiamo un amico, mangiamo qualcosa che ci stuzzica e quindi questi stati mentali, soprattutto la noia, il vuoto, no? Lo copriamo in questo modo. So the especially states like boredom get easily covered up in daily life because we just turn on the TV or call a friend or go to the fridge and take out something to eat. Il terzo ostacolo è la pigrizia e il torpore. The third obstacle is sloth and torpor. Che tra tutti non è poi il peggiore. Which may not per be, mia esperienza non which è may not be the worst thing to happen to certe you. Certe volte magari fa quasi comodo. At times it may even be comfortable. Nel senso che non è il peggiore perché può sorgere appunto nei primi giorni del ritiro, un po' perché magari si arriva stanchi, stressati, quindi la mente come se si lasciasse andare, quindi c'è questo stato di addormentamento. So it's not the worst also, because usually it presents in the first two or three days of a retreat, and it may also be because one has come tired and the mind finds a way finally to relax and gets a bit obtuse in doing so. Diventa invece importante se questa modalità della pigrizia, del torpore continua in seguito anche dopo due, tre giorni, quattro giorni dall'inizio del ritiro. One needs to begin to pay attention to this if it continues to manifest several days into a retreat, so fourth day, fifth day, they're still present. E ricordate. Scusa. E ricordate che appunto l'ha paragonato dell'acqua con delle alghe, no? Quindi cioè possiamo immaginare questa cosa di essere proprio immersi in questa acqua dove non si vede nulla. So this again here the comparison to the water with the algae or the weeds is important because it's like having a mind that's in the dark. You can't really see anything. Sluggish. Per mia esperienza, questo stato mentale l'ho sempre vissuto come entrare dentro un tunnel scuro e un po' fognoso, dove non hai nessun tipo di percezione, c'è cioè questa mente che è appiccicosa, che non è bella, insomma. So, in Luisa's own experience, it's like going into this kind of tunnel, and then you go into this tunnel and it's a bit sticky down there, and the mind is sluggish and slow and can't really perceive anything clearly. E si ha proprio questa sensazione di mancanza di energia, si ha voglia di dormire, e quindi i pensieri che sorgono sono: sì, ma che noia questa pratica, sono troppo stanco, sono senza energia, quasi quasi mi faccio un pisolino, a chi non è capitato? So, thinking here maybe of the nature, oh, this practice is so boring, or I really could use a nap, or oh, I'm so tired, I really need to sleep. E quindi anche questo bisogna riconoscerlo, etichettare torpore, pigrizia, eccetera, eccetera. And here again important to recognize torpor, laziness, sluggishness. E ci sono tanti antidoti che si possono applicare a questo ostacolo. And there are many antidotes that one can apply. E lo stesso Buddha l'ha insegnato a un monaco che aveva questo problema del torpore, non riusciva a stare in meditazione. And the Buddha himself gave several instructions to a monk who had this problem and was continually falling asleep. Quindi si può aprire gli occhi. So one thing you can do is open your eyes. Fissare una luce. Fix your eyes on a light. Oppure fare la meditazione in piedi. Or do standing meditation. O fare una meditazione camminata veloce. Or maybe even do a walking meditation quite briskly up and down. Se poi neanche in questo modo si riesce a, come dire, a rimettere in moto l'energia. So if even doing this you can't build up sufficient energy. Anche lo stesso Buddha ha buttato la spugna e gli ha detto al monaco, vai a dormire. I said, well, in this case, then go and take a nap if you have to, right? So, throw comunque, in the towel. In questo caso, appunto, è proprio la mancanza di energia. Bisogna dare un attimo il tempo cercando, appunto, di trovare, di provare questi antidoti e poi, se proprio uno non ci riesce, fa un piccolo riposo, però ovviamente, come dicevo prima, che non si protragga nel tempo, no? Ci sta che il primo giorno, il secondo giorno, però poi dopo, a quel punto probabilmente questo torpore oppure questa pigrizia è legato a qualcos'altro, no? O la mente che si rifiuta di vedere qualche oggetto spiacevole. So here again, like if the first couple of days it's nothing to be concerned about, but if it's still there, third, fourth, fifth day, then it may be not due to some innate tiredness, but maybe because there's a kind of refusal in the mind to observe or investigate, or so it really needs to be recognized. Poi il quarto ostacolo invece è l'agitazione e l'irrequietezza, e quindi è dell'acqua che viene sbattuta dal vento da una parte e dall'altra. The fourth is restlessness and worry, and here compared to water that is being moved about by the wind. E a questi ostacoli sono associati anche la preoccupazione. So the agitation is also associated with worry. È uno stato in cui non si riesce a stare fermi, non si riesce a stare seduti durante la seduta di meditazione. And it's a state that doesn't allow you to sit still. It's a kind of internal agitation. Perché se appunto si ha questa agitazione interna. E siamo un po' come dei bambini. So the mind becomes like a child, like a child's mind. Ho fatto proprio un'osservazione coi bambini, lavorando a scuola coi bambini, no? È il momento in cui devono andare a dormire, no? Ci sono dei bambini che hanno proprio queste irrequietezze e questa agitazione interna. So Luisa, working with children, has an opportunity to observe them, and then sometimes before they go to bed, there's this kind of restlessness that comes upon them. E c'è, come dire, sempre qualcosa, ti richiedono qualcosa. Posso andare a bere, devo andare a fare la pipì, voglio prendere il mio peluche, no? Quindi hanno, come dire, cercano degli escamotage, no? Per non stare fermi. E ho notato che man mano aumenta l'agitazione. And so then they say, well, I want to go to do pipì, or can I have my peluche, or it's a way of giving vent to this restlessness. And the more you give it room to express itself, the stronger it becomes. Ma nel momento in cui il bambino lo si porta a calmare, a rilassarlo, per esempio, non so, qua, non dico costringerlo, però a stare fermo. But if on the other hand the child is made to stay still for a little period of time, magari tenendogli la mano, accarezzandolo, questa agitazione si calma immediatamente e il bambino dorme. Maybe by taking the child by the hand or caressing the child, and then soon the agitation dies down and the child can go to sleep. Quindi e la stessa cosa succede a noi quando viviamo questo stato, no, di agitazione, di irrequietezza o con pensieri di preoccupazione. So similarly with us when we have this state of restlessness or anxiety or worry. Continuiamo a muoverci sul cuscino, non riusciamo a stare fermi. E in questo caso bisogna proprio cercare di riportare la consapevolezza sul etichettando, se lo riconosciamo, che è uno stato mentale non salutare. So here too, we're continuously moving on the seat, we can't seem to find a position of comfort. And here too we might recognize that there's some underlying restlessness. E cercando di rimanere fermi nella posizione seduta. And then it's just trying to sit as still as possible. E osservando come agisce questo impedimento a livello fisico. And here again observing how this impediment manifests in the body. Quindi potremmo percepire delle sensazioni come di caldo, di brividi, oppure come quando ti si rizzano i capelli in testa. So you might experience it as like shivers or heat or feels of vibration. E osservare i pensieri che sorgono, che sono pensieri che si riferiscono invece al passato. And here the thinking may often refer to the past. Quindi per esempio, non so, arriva un pensiero, un ricordo di un qualcosa che è stato fatto nel passato e il pensiero è: ah, se non avessi fatto quello, o se avessi fatto questo, io sarei più tranquilla, eccetera, eccetera. And then here also a kind of maybe a form of remorse that mind thinks, memory comes up and think, well, if I hadn't done that, it would be better now, or I wish I hadn't done that, or if only I hadn't done that, or if I had done this instead. Quindi riportarsi alle sensazioni fisiche e al contatto, e questo aiuta a calmare questo stato mentale e poter stare sull'oggetto di meditazione. So important here to bring the mind into the body and maybe just settling it on the touch points, something stable to hold the mind. E l'ultimo è il dubbio scettico, l'impedimento. E il Buddha lo paragona a questo stato, allo stato dell'acqua torbida, fangosa, e tra tutti gli ostacoli è quello più pericoloso. So the fifth is skeptical doubt, which the Buddha compared to muddy water, and of the five obstacles, this is perhaps the most dangerous. Arriva alla fine. Quando sono arrivati tutti gli altri quattro, alla fine arriva il dubbio scettico. And usually it comes at the end of the sequence of hindrances. So usually the first four have already manifested, and then the fifth one comes afterwards. Diventa pericoloso per la pratica, perché non riconoscendo gli altri ostacoli e come dire, non etichettandoli, non capendo che è una fase della pratica. So not having recognized the previous obstacles or not having noted them sufficiently or with sufficient clarity, then the doubt arises as a kind of threat to the practice. Si mette in dubbio la pratica stessa. Because it puts into doubt the practice itself. E quindi si arriva a pensare: questa pratica non è per me, io non ci riesco, non sono in grado di meditare, oppure l'insegnante non è bravo come me l'aspettavo. Cioè tutta una serie di pensieri che si collegano alla nostra pratica. So then a sequence of thoughts may arise linked to our own practice, so thoughts like this is not for me, or I'm not capable, or I can't meditate, or the teacher is not what I expected he would be. E quindi il rischio è quello di abbandonare. And the danger is just that one can be swayed by this thinking and think about abandoning the retreat. Quindi invece di abbandonare, come dire, cercare il supporto dell'insegnante che magari appunto spiega che è legato a a un dubbio, a un ostacolo della pratica e quindi, come dire, rassicura il praticante rispetto a questo. So it's important to know here that this belongs to a part, to a phase of the practice, and to recognize it as belonging to a phase of the practice, and also perhaps using taking assistance from the teacher, asking for advice before deciding to leave. Quindi capite come è importante riuscire a individuare questi ostacoli. And so it's important to recognize and identify the obstacles. La cosa importante è riconoscerli. And to know them, to recognize them. Etichettarli oppure prenderli proprio come oggetto di meditazione. To label them, to take them as an object of observation. E accettare questi ostacoli come fasi della pratica che possono essere superati. And so to also accept these hindrances as belonging to the practice, as a part of the practice, and by doing this then it becomes possible to overcome them. E nel momento in cui questi ostacoli vengono superati, and when these obstacles are overcome, allora la mente diventa chiara, diventa soffice, morbida. Then you have the opposite of wholesome mental states are present in the mind, and the quality of the mind is peaceful and clear and soft. E a quel punto si può rimanere sull'oggetto di meditazione, far sorgere la consapevolezza, mantenere la consapevolezza, arrivare alla concentrazione e poter sperimentare e vivere tutti quegli gli insight della pratica, and le visioni profonde della pratica. And this overcoming of the obstacles is an important moment in your own practice, because then the mind being clear is in a condition to keep a continuity of mindfulness, and the concentration develops, and then the whole process of insight can begin. A parte questi cinque ostacoli che sono molto ben chiari e molto descritti, come dire, in modo approfondito, ci sono degli altri ostacoli che noi possiamo incontrare nella pratica? So here, apart from the five obstacles that are very clearly described and indicated in the text, there may be other difficulties that also arise that Luisa would like to talk about. Per esempio, vabbè, il dolore. For example, pain. Però sul dolore c'è tutta una... bisognerebbe fare un discorso particolare, però giusto per, come dire, indicarlo come un ostacolo, come una difficoltà più che un ostacolo, perché non è un ostacolo alla fine il dolore, anzi in alcuni casi è un buon amico. So probably one could give an entire talk on how to manage with pain, but just briefly to say here that not to think of pain as an obstacle, but it may sometimes present itself as a difficulty in the practice. But the pain is not really an obstacle, and at times the pain can even be a good friend. Per esempio, quando abbiamo lo stato di sonnolenza e il torpore, se arriva un dolore, quello sparisce, quindi superiamo l'ostacolo, andiamo incontro a una difficoltà che è il dolore, però, e diventa un oggetto importante di meditazione e su cui noi possiamo veramente lavorare. So the pain can be an important object of meditation, and it can even be a friend. For example, one is sleepy or drowsy and a strong pain arises in the body and the mind is able to concentrate and the sleepiness goes away immediately. Per esempio la storia di Milarepa. There's this story of the Tibetan yogi Milarepa. Yes. Lo conoscete? No? Comunque ve lo consiglio, leggete il libro. In Italia è stato fatto un film, a Lidiana Cavani ha fatto il film Milarepa, la storia di Milarepa. If you don't know about Milarepa, Luisa recommends that you read about him. There's a film by Lidiana Cavani called Milarepa. Penso che sia non ci siano stati altri registi, esiste solo questo film, è molto vecchio. Yes, it's an old film. Luisa thinks it's the only one. Però è molto lo trovate, è molto bello da vedere. It's very beautiful if you're able to get a hold. Comunque mi la repa dopo una vita abbastanza complicata. Era la ricerca, finalmente decide di cercare un maestro. So Milarepa, after a quite an eventful life, goes finally in search of a teacher. E lo trova, alla fine lo trova. He finds this teacher. E questo maestro gli fa fare una vita veramente durissima, quasi proprio per fargli purificare tutto il karma passato. So Milarepa, who had accumulated a lot of negative karma in his life, was then forced to undergo a very rigorous training. Training vero, che non sto a raccontarvi, ve lo andate a leggere. E vabbè, comunque alla fine lui diventa un meditante, un eremita meditante, vive in una caverna da solo e si ciba solo di ortiche, so, perché l'unico cibo che riesce a trovare sono le ortiche. So he goes eventually to a cave where he becomes a hermit. And he lives on nettles, which are the only food that's available to him. Tant'è che infatti la storia racconta che lui era diventato verde come le ortiche. La sua pelle era diventata verde. The story goes that eating just nettles, his skin had turned green. E un giorno era nella caverna che meditava e gli si sono presentati 5 demoni. And there's the story of where he's meditating in the cave, and these 5 demons present themselves. Che poi sono appunto sono un po' gli ostacoli, no? Which may really refer to nothing other than the obstacles. E lui manda metta verso questi demoni che scompaiono, no? Sì. Spariscono. And these initially he offers metta to the demons, and tutti spariscono. Sì, tutti. And they all disappear. Però poi ne ritornano altri 3. But then 3 of them come back again. E lui riprende a mandargli metta, 2 spariscono, ma uno è bello tosto, rimane lì, non si muove. So he continues to offer metta. And 2 of them disappear, but 1 of them is a ferocious demon, and he's not gone anywhere. Finché a un certo punto questo demone spalanca questa bocca enorme e Milarepa cosa fa? Gli si butta dentro. And so this demon then opens his mouth big, and what does Milarepa do? He dives into the mouth of the demon. Sparisce poi. And the demon disappears. Okay. Cioè, questa è una metafora per dire che quando incontriamo nella pratica queste difficoltà, questi ostacoli, questi stati mentali difficili, non dobbiamo avere paura, perché tanto è quello che c'è, non dobbiamo scappare, quindi dobbiamo accettare tutto quello che ci arriva e prenderlo come oggetto di meditazione. Quindi, come ha fatto Milarepa, se arriva il dolore ci buttiamo nel dolore, lo andiamo a osservare, vediamo com'è fatto, no? So the important thing here is to not be afraid of what presents itself or what may present itself in meditation. To see them as objects of observation from which we can learn. And so if a pain presents itself, then it's an object that we can dive into and learn something from. E un altro, diciamo, un'altra difficoltà, un altro ostacolo potrebbe essere l'aspettativa verso la pratica. Another difficulty may be one's own expectations towards the practice. Capita spesso, soprattutto meditanti che già praticano da un po', di aspettarsi di raggiungere degli insights o di avere delle sedute meravigliose, belle pacifiche, no? Invece non è così. So it can happen, especially with people who have been meditating a little bit, that they come to a retreat and maybe they have an idea that they would like to experience a particular insight, or that the sittings will all be very comfortable and peaceful. Anche perché questo non ci riporta al presente, ma siamo proiettati, no, verso il futuro, no? Ci aspettiamo qualcosa. And here again there's a kind of subtle projection that is always taking us away from the present moment. Quindi la cosa più importante è restare nella pratica. So the important thing here is just to be with whatever. Restare sul nostro oggetto di meditazione. Whatever presents itself as an object of meditation. Se arrivano gli ostacoli e le difficoltà, li si affronta, li si vede come oggetti di meditazione. So the objects, if the obstacles arise, then we take them as objects of observation. E sicuramente piano piano la pratica diventerà sempre, si approfondirà e diventerà sempre più matura. And so doing this again and again, then in time the practice does deepen and mature. Ok. Io ho finito. Vi auguro di fare come Milarepa, di buttarvi come fa il tuffatore dal trampolino. Avete mai visto, no? Che, ecco, questo è un esempio secondo me molto calzante, no? Quando il tuffatore si butta, no? Cos'è? Come si mette, no? Concentrato, e ha una posizione flessibile perché ha questo slancio, ma il suo corpo non è rigido, è morbido, no? Quindi si butta dentro l'acqua, va in profondità. Quando arriva in profondità il tuffatore sfiora quasi il fondo della piscina, ma non si fa male e poi ritorna su. So this image of the diver is quite interesting because the diver is in this position of in this concentrated position, but the body is still flexible, soft. And diving into the water, then the diver goes to the bottom and touches, brushes the bottom. Okay. So Luisa wishes that you might try the same. Okay, grazie. Okay.